Io proverò un po' a raccontarvi innanzitutto come si arriva, come la Cina è arrivata a essere oggi un paese che punta entro il 2030 a essere praticamente la leader mondiale per quanto riguarda i big data e l'intelligenza artificiale. Ovviamente è un processo lungo e cercherò di ritagliare solo l'ultimo periodo in cui questa evoluzione ha avuto un'accelerazione molto forte. Dopodiché andrò a raccontare alcuni casi, alcuni esempi di come l'intelligenza artificiale viene utilizzata da Pechino e poi cercherò un po' di raccontare come mai proprio le questioni relative alla tecnologia e all'intelligenza artificiale sono il substrato praticamente di quello che noi vediamo poi in maniera più superficiale, ovvero lo scontro praticamente tra Stati Uniti e Cina riguardo ai dazi. Tra l'altro proprio stasera Xi Jinping incontrerà Trump al G20 in Argentina, dove dovranno trovare un compromesso su questo. Naturalmente poi lascerei spazio a domande, perché ci sono tantissimi elementi e questioni che possono essere trattati più nello specifico. Io cercherò di fare una carrellata, nel caso abbattimi se vedi che non mi... Okay, grazie. Allora, intanto, per dirvi che prima, dato che prima ne parlavamo proprio poco prima di iniziare, quando sono arrivato in Cina nel 2006 c'erano circa... Allora, la base dell'intelligenza artificiale, come diceva Marco, sono i dati. Quindi se noi vogliamo andare a vedere come la Cina è arrivata a sviluppare oggi forme di intelligenza artificiale in più settori, bisogna anche capire primariamente come, anzi quando si è accorta sostanzialmente di avere così tanti dati, non solo in termini quantitativi ma anche in termini qualitativi, e quando fondamentalmente ha iniziato praticamente a utilizzarli per tutto quanto riguarda poi l'intelligenza artificiale. Quando sono arrivato in Cina nel 2006 c'erano 138 milioni di utenti internet in Cina, la stragrande maggioranza dei quali utilizzava internet da postazioni fisse o da internet point, che erano ovunque infatti in Cina, tanto che all'epoca uno degli strippi, diciamo, dei giornalisti era quello di inseguire i cosiddetti cacciatori d'oro su internet, nel senso persone che passavano intere giornate negli internet point a procacciarsi crediti per i videogiochi, praticamente da rivendere poi ai giocatori, i gold miners mi pare si chiamassero, tanto che, per fare un esempio subito immediato, Liu Cixin, che è uno dei più importanti adesso scrittori di fantascienza cinese, che ha vinto di recente proprio il premio Hugo, nel suo Problema dei tre corpi, che è il libro un po' più famoso, parla proprio anche di questo fenomeno, seppure in parte, avendo a che fare appunto con la realtà virtuale. E all'epoca, nel 2006, il segretario del Partito Comunista, nonché presidente della Repubblica Cinese, era Hu Jintao, che rappresenta un po' l'ultima generazione dei tecnocrati, praticamente, che hanno preso le redini del paese dopo le riforme avviate da Deng Xiaoping, cioè l'apertura praticamente della Cina al mercato globale. E la Cina cresceva nel 2006 a doppia cifra. Nel 2008, quando ha ospitato le Olimpiadi a Pechino, cresceva del 14%. La maggioranza, diciamo, del PIL dipendeva fondamentalmente dalle esportazioni. Cioè la Cina nel 2006 era la fabbrica del mondo, come siamo abituati a conoscere purtroppo per molti. Ancora oggi a volte viene ancora descritta così, anche se ormai è qualcosa che praticamente non esiste quasi più. Esportazione che si basava fondamentalmente su tre cose: bassi salari, alta intensità di lavoro e zero diritti praticamente per i lavoratori, e prezzi bassi poi sui mercati occidentali. A questa corsa sostanzialmente, che ha creato il vero miracolo cinese, hanno partecipato non solo aziende cinesi ma anche aziende naturalmente straniere, che localizzavano, delocalizzavano la propria produzione in Cina sfruttando appunto l'alta massa di manodopera e sviluppando quindi praticamente questo modello che Deng Xiaoping definì socialismo di mercato, che ovviamente ci può apparire un ossimoro ma in Cina non lo è. E quindi nel 2006 la Cina praticamente arriva a una crescita altissima sfruttando fondamentalmente questo fenomeno. Si parlava ancora molto poco di mercato interno, si parlava ancora molto poco di tecnologie. Oggi la Cina ha 800 milioni di utenti internet, il 90% dei quali si collega a internet attraverso smartphone. La maggioranza di queste persone che si collegano attraverso smartphone usa un'app in particolare che si chiama Weixin, che qua in Italia noi conosciamo, in Europa conosciamo come WeChat, che però che addirittura ha più di 900 milioni di utenti, cioè ne ha più di quelli che sono gli utenti internet in Cina, perché naturalmente anche io ce l'ho, per dire, faccio parte quindi di tutta quella massa di utenti che usa WeChat anche non in Cina, anche se ad esempio in Italia, come vedremo poi nello specifico, perché la nascita di WeChat è un momento fondamentale proprio in quello che dicevamo prima. In Europa WeChat non ha le stesse funzioni che ha in Cina, è semplicemente una specie di messaggistica istantanea come può essere WhatsApp, e in Europa opera con un meccanismo, diciamo, business to business. Praticamente WeChat funziona come consulente per le aziende italiane, ad esempio in Italia, che vogliono entrare sul mercato cinese via WeChat. Quindi è una cosa differente. Però, come vedremo, è un momento fondamentale proprio per la questione legata ai big data e per la questione legata all'intelligenza artificiale. Oggi al potere in Cina c'è Xi Jinping, segretario del Partito Comunista, nonché Presidente della Repubblica Cinese. La Cina non cresce più a doppia cifra, anzi cresce al 6,9%, diciamo, come media, anche se gli ultimi dati dell'ultimo trimestre indicano un 6,7% proprio in virtù della guerra commerciale con gli Stati Uniti, ma il 56% del PIL cinese dipende dai servizi, cioè dal mercato interno. Quindi c'è stato un cambiamento, nel senso che la Cina esporta ancora molta manifattura e lo farà ancora attraverso il progetto di Nuova Via della Seta, ma ha sviluppato soprattutto il proprio mercato interno, cercando di spingere il più possibile in innovazione e tecnologia. Tanto che nel 2013 è stato lanciato un piano che si chiama Made in China 2025, che ha come principale obiettivo quello di far sì che la Cina entro il 2020 ripiani praticamente il gap che ha con, soprattutto con gli Stati Uniti, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, che diventi nel 2030 il primo paese al mondo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Ora, naturalmente, come si è arrivato a tutto questo? Ci sono dei momenti particolari nella recente storia cinese che hanno determinato un po' il passo di questo, tenendo conto anche del contesto nel quale stiamo parlando, cioè la Cina, che è un paese, appunto, un socialismo di mercato guidato di fatto da un partito unico, e quindi si presta a tutta una serie di caratteristiche cinesi che sono un po' una scusa con la quale talvolta sembra che il governo voglia giustificare qualsiasi cosa, ma che effettivamente è qualcosa di cui bisogna tener conto, perché altrimenti alcuni elementi di tutta questa storia potrebbero risultare incomprensibili. Per dirvi dei dati, nel 2006 dei dati in Cina non gliene fregava praticamente niente a nessuno, perché il mercato era massificato, non c'era alcuna necessità di segmentare, non esistevano società, praticamente pochissime ne esistevano, di database marketing, cioè società che raccoglievano dati su cui poi operavano data mining per fare appunto la creazione di cluster, per arrivare a un sistema di conoscenza maggiore dei propri clienti. Semplicemente non ce n'era bisogno, perché un paese che cresce al 14% basta creare una bottiglietta d'acqua, la vendi senza aver bisogno di sapere se chi la compra comprava anche a teatro o compra anche la Coca-Cola. Anzi, io mi ricordo che avevo incontrato il general manager dell'unico negozio di una importante casa automobilistica italiana, che era a Shanghai. La casa automobilistica è famosa per il colore rosso e il cavallino, e era l'unico negozio che c'era a Shanghai, e lui mi aveva raccontato che non utilizzava database marketing. Lui aveva iniziato a vendere semplicemente mettendo l'indirizzo del negozio a Shanghai sulle pagine gialle. E quindi cosa succede? Che il miliardario della provincia del Guizhou o del Gansu chiamava, diceva: domani voglio due Ferrari nel cortile di casa. E funzionava così, non c'era bisogno quindi di segmentare. Naturalmente tutto questo è via via cambiato. Un primo momento importante è sicuramente il 2008, perché nel 2008 si evidenzia la crisi dei mercati occidentali, la crisi dell'economia occidentale, e questo comporta anche non tanto una difficoltà per l'economia cinese, però la necessità di cambiare di fatto il proprio modello produttivo, perché ovviamente la crisi occidentale ha creato principalmente una diminuzione degli ordini, sostanzialmente della merce prodotta dalla Cina, e quindi già allora Hu Jintao, che era il presidente della Repubblica Cinese, il segretario del Partito Comunista, che non è una cosa monolitica il Partito Comunista, all'interno del Partito Comunista ci sono varie fazioni. Per farla molto breve, Hu Jintao fa parte di quella fazione che oggi, va a leggerla con una lente, diciamo, ultra contemporanea, potremmo definire dei populisti, cioè una classe dirigente cinese che arrivava principalmente dalla Lega della Gioventù Comunista, e che aveva un approccio, come dire, il più possibile egualitario, e quindi ad esempio di fronte allo sviluppo fortemente irregolare praticamente che la Cina aveva avuto, perché i dati di cui vi parlavo prima sulle esportazioni dipendevano quasi tutte da una parte precisa del continente cinese, che è quello sudorientale, quindi Shanghai, Shenzhen e tutta un'altra serie di città della costa praticamente orientale, a discapito naturalmente delle regioni interne. E già Hu Jintao appunto prova quindi a cambiare questo modello, cercando di far sì che l'economia cinese venga trainata dal mercato interno, gettando moltissimi soldi, ad esempio, sullo sviluppo di industrie già tecnologiche all'epoca in alcune regioni centrali della Cina. Naturalmente il fatto che l'economia occidentale abbia cominciato a rallentare ha costituito un elemento fondamentale di svolta per la Cina, che inizia appunto nel 2008. Nel 2011 c'è un altro evento che potremmo definire storico per quella che è la recente storia, chiamiamola, dell'intelligenza artificiale o dei big data in Cina. Nasce appunto Weixin, nasce WeChat, che come al solito noi in Occidente tendiamo a definire sempre guardando a noi stessi, quindi è stata definita la WhatsApp cinese. In realtà all'inizio non era effettivamente tanto diversa, però dopo pochissimi mesi dalla nascita aveva già 300 milioni di utenti, perché è prodotta dalla Tencent, che aveva già prodotto prima QQ, che era una sorta di messaggistica istantanea come il Messenger di Microsoft praticamente. E quindi c'è stato un travaso praticamente di quegli utenti su WeChat, che però naturalmente è un'applicazione che va su smartphone, sullo smartphone. Tenete presente che Tencent è un'azienda privata, ma tanto per parlare di dati, in Cina naturalmente le aziende private sono tollerate, molti miliardari fanno parte del Partito Comunista, adesso qui apro una doppia parentesi, ma le aziende private naturalmente operano o sostenute dallo Stato proprio attraverso incentivi, che non che devono essere per forza diretti, nel senso che succede ad esempio che molte municipalità cinesi danno terreni o sgravi fiscali a queste aziende, che poi impiantano praticamente i propri servizi in un determinato luogo, quindi giovandosi di tutta una serie di facilitazioni. Oppure sono aiuti che arrivano in maniera indiretta, ad esempio la creazione di un ambiente nel quale, economico, nel quale queste aziende possono operare tranquillamente. Ad esempio WeChat forse non sarebbe mai esistita se la Cina non avesse operato una censura da moltissimo tempo nei confronti di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e anche WhatsApp. Naturalmente la censura, cioè la volontà di controllo da parte del Partito Comunista cinese di tutto quanto accade praticamente nella società cinese, ha funzionato anche come una soluzione economica, perché ha consentito di liberare il campo dai competitors occidentali e quindi di lasciare invece campo aperto alle produzioni indigene autoctone, come vengono definite proprio in Cina. La vera svolta praticamente di WeChat c'è 2 anni dopo, nel 2013, in quella che Jack Ma ha definito la sua personale Pearl Harbor. Jack Ma è il famosissimo miliardario della Cina, proprietario di Alibaba, che è l'azienda di e-commerce più grande al mondo, ma non fa solo e-commerce, ormai è praticamente anche una banca. E di recente, non so, forse ne avrete sentito parlare, perché appunto è venuta fuori la storia che Jack Ma è iscritto al Partito Comunista Cinese. Non è in realtà una cosa che fa particolarmente strano, oggi come oggi, perché fin da metà degli anni 90, praticamente, quando il Partito Comunista era ancora composto per il 68% dei suoi membri da contadini operai, e da metà degli anni 90 che ormai moltissimi imprenditori, che poi sono diventati via via miliardari, fanno parte del Partito Comunista. La cosa era talmente evidente che addirittura nel 2001 l'allora presidente della Repubblica Popolare, Jiang Zemin, teorizzò le cosiddette tre rappresentanze, cioè il fatto che il Partito Comunista non deve rappresentare solo operai, contadini e ceto intellettuale, chiamiamolo così, ma anche le forze produttive, cioè sostanzialmente gli imprenditori. Quindi non è assolutamente strano che Jack Ma faccia parte del Partito Comunista. Perché Jack Ma dice che il 2013 è stato la sua personale Pearl Harbor? Perché Alibaba aveva anche un sistema di pagamento che si chiama Alipay, che esiste tutt'oggi, praticamente una sorta di forma di pagamento, come potrebbe essere, che ne so, come si chiama, PayPal, non so, qualcosa di questo tipo, che era già ampiamente utilizzata da chi soprattutto utilizzava i servizi di Taobao, di Tmall, eccetera, che sono i servizi online, di e-commerce online di Alibaba. Solo che nel 2013 WeChat fa un colpo da maestri, sostanzialmente. Nel senso che durante il Capodanno cinese, che è un po' il nostro Natale, durante il Capodanno cinese le persone tornano ai propri luoghi di origine, dalle famiglie, passano, è tutto chiuso, non succede niente. Però c'è l'abitudine di scambiarsi le hongbao, che sono delle buste rosse, dove ci si mette dentro i soldi, come succede, credo, anche in altre parti del mondo. Per il Capodanno del 2013 WeChat lanciò il servizio di scambio delle hongbao virtuale. Cioè, praticamente diceva agli utenti WeChat, tu Simone, vuoi mandare una busta rossa a Marco? Puoi farlo, basta che ti attacchi il conto corrente all'account di WeChat e tu puoi mandare dei soldi direttamente a Marco. Naturalmente questo ha sconvolto completamente tutto il mercato dell'e-commerce, perché intanto WeChat era già ampia come base, diciamo, di utenti. In più, naturalmente, questo ci sono stati più di 8 milioni di scambi praticamente di hongbao nel giro di pochissime ore. Naturalmente questo ha consentito cosa? Ha consentito che anche la possibilità di scambiarsi di soldi senza troppe problematiche, e ha avviato praticamente il sistema di pagamento di WeChat, che da quel momento è diventata una sorta di app di una super app, cioè di app formata da tante app. È difficile definire all'interno del mondo software una killer application, però di fatto in pratica questo è lo stato. Voi immaginatevi cosa è stato quando Apple ha fatto lo smartphone, che ha obbligato tutti a fare delle app per accedere a tutta una serie di servizi. Beh, WhatsApp ha fatto praticamente la stessa cosa senza l'utilizzo di un hardware, cioè utilizzando semplicemente quell'app. Questo cosa significa? Che oggi praticamente il 90% dei cinesi che accede al cellulare alla rete via smartphone lo fa attraverso WeChat, perché dentro a WeChat ci sono tutte le app che consentono di prenotare una visita medica, pagare il ristorante, prenotarsi una vacanza, prenotarsi un aereo. Addirittura, adesso questa non è una cosa che dico solo io, per fortuna ho trovato una prova, perché Yu Hua, che è un grandissimo scrittore cinese, nell'ultimo libro la racconta. WeChat ha anche un sistema di pagamenti diretti via QR code, e ad esempio in Cina i senza tetto mettono accanto a tutti i loro pochi averi, mettono un QR code per avere direttamente via WeChat una forma di elemosina. Per dirvi quanto sia pervasiva, in Cina non si usano più i contanti oggi, si paga tutto o via WeChat o via riconoscimento facciale, e poi ci arriveremo. Questo naturalmente è stato un evento che ha completamente sconvolto il mondo delle applicazioni cinesi, e oltretutto negli ultimi 2 o 3 anni è aumentato ancora il peso di WeChat, tanto che adesso in alcune regioni, ed è ipotizzabile che diventerà nazionale, WeChat ha il riconoscimento dell'ID, quindi come se fosse la carta d'identità, e quindi funziona come documento di identità personale per tutto, e quindi ci si può anche pagare le tasse, tutto quello che è la burocrazia, eccetera, viene effettuato attraverso questa applicazione. Cosa significa questo? Una marea di dati, naturalmente. Una marea di dati su tutto quello che una persona fa, non solo online, perché Facebook ci può tracciare quanto vuole a seconda del like che mettiamo, Amazon ci può tracciare quanto vuole a seconda dei libri che compriamo, si può comprare di tutto su Amazon, qualsiasi cosa che acquistiamo, ma non sa quando andiamo dal parrucchiere, non sa quando andiamo a mangiare al ristorante, non sa quali locali frequentiamo. Invece in Cina, naturalmente, pagando tutto con l'applicazione WeChat, i dati non sono solo tanti, ma sono anche qualitativi. Okay? Tanto che si dice che la Cina oggi sia l'Arabia Saudita dei dati, lo dice Li Kaifu, che è uno dei principali osservatori oggi come oggi del mondo dell'intelligence artificiale. È l'ex, aveva lavorato prima in Apple e in Microsoft, poi è stato l'ex amministratore delegato di Google Cina, se ne andò proprio quando Google Cina venne praticamente estromessa dal mercato cinese e spedita a Hong Kong, e oggi è un angelo finanziario, come si dice, cioè finanzia sostanzialmente le start-up proprio di intelligenza artificiale. Startup di intelligenza artificiale che nel 2017 hanno raccolto più fondi e più investimenti di quelle americane. E visto che Li Kaifu ha utilizzato questo termine, cioè la Cina e l'Arabia Saudita dei dati, attenzione, perché in questo futuro scontro che potremmo definire tecno-geopolitico c'entra anche l'Arabia Saudita, che probabilmente tenta di uscire, diciamo, anche dalla sua situazione molto specifica sui carburi attraverso ad esempio i propri fondi sovrani che stanno investendo tantissimo in startup di intelligenza artificiale anche cinese. E tutto questo naturalmente ha un suo sfondo, come potremmo dire, politico. Come dicevo prima, nel 2012 Xi Jinping è stato nominato segretario del Partito Comunista e nel marzo del 2013 è diventato Presidente della Repubblica Popolare Cinese. Xi Jinping, al contrario di Hu Jintao, cioè del suo predecessore, non è un tecnocrate, anche se ha studiato, mi pare, chimica, però in realtà è più una persona che potremmo definire con un profilo umanista, e che ha deciso di formare quello che è il comitato centrale praticamente del Politburo, di persone che non sono appunto più a maggioranza tecnocrate, anzi c'è pure un ideologo che è Wang Hongying, che è considerato il teorico del neo-autoritarismo e che è proprio la persona che si occupa in particolare dell'intelligenza artificiale. E Xi Jinping naturalmente ha cambiato moltissime cose nella Cina di oggi. Innanzitutto Xi Jinping è un principino, come vengono definiti in Cina, Tai Zedang, cioè significa che è praticamente figlio di un padre della patria. Suo padre aveva fatto la lunga marcia con Mao, però i principini, la nobiltà rossa non sono semplicemente i figli di, ma possono essere anche parenti di. Comunque fanno parte di questa sorta di aristocrazia politica all'interno del Partito Comunista, che rappresenta una delle fazioni, proprio quella contrapposta praticamente a quella che prima abbiamo definito populista, e questa la potremmo definire elitista. In realtà sono categorie che vengono utilizzate da sinologi e che adesso non è che sono di mia invenzione. Solitamente si tendeva a differire tra l'esistenza appunto dei principini e quella di chi arrivava dalla Lega dei giovani comunisti. In realtà questa nobiltà rossa cinese, diciamo che è più liberale, potremmo dire forse in termini economici, mentre è molto più conservatrice o conservatore per quanto riguarda invece tutto quello che è il controllo sociale della popolazione e la necessità di mantenere lo status quo, tenendo presente che entrambe le correnti all'interno del Partito Comunista, tra le tanti vari desiderata che hanno naturalmente anche il principale compito di mantenere il Partito Comunista al centro della politica cinese. Xi Jinping l'ha fatta a suo modo, ristabilendo la centralità del partito nella società cinese attraverso una campagna anticorruzione fortissima, perché se la corruzione è endemica al sistema cinese negli ultimi tempi, anche a causa della crescita di cui vi ho parlato prima, naturalmente ci sono stati tantissimi funzionari che improvvisamente si sono arricchiti, tanto che la popolazione cinese ha perso un po' di fiducia nei confronti del Partito Comunista. Xi Jinping l'ha riacquistata attraverso appunto una campagna anticorruzione con la quale, come aveva detto, ha colpito tigri e mosche, cioè da piccoli funzionari locali che non contano niente a grandi funzionari. Parliamo di più di 1 milione di persone che messe sotto inchiesta, centinaia di migliaia in galera, alcuni sono andati a prenderli anche proprio sul letto dell'ospedale morenti, ad esempio è capitato con un militare. Fatto questo, Xi Jinping, che si presenta molto come presidente del popolo, nel senso che ha un approccio molto popolare e per in qualche senso anche populista, da un lato si è inserito nella continuità storica comunque della precedente leadership, della precedente dirigenza, cioè operando praticamente lo scarto di cui parlavo prima, cioè trasformare la Cina da un paese che dipende dall'esportazione a un paese che invece viene trainato dal mercato interno e proprio dall'innovazione. Dall'altro però ha scartato in maniera molto netta. Lo ha fatto con due progetti in particolare, uno di cui oggi magari non ne parliamo, ma ha in qualche modo a che vedere con lo scontro con gli Stati Uniti, che è la nuova via della seta, che è praticamente l'idea cinese di globalizzazione. Perché poi alla fine, quando io prima vi raccontavo del 2006. Nel 2006 qual era la percezione della Cina per molti italiani? Era quella di associarla immediatamente o al ristorante, vabbè, oppure associarla a Napoli, nel senso fake, prodotti a basso costo, tarocchi, eccetera. Ma mentre tutti pensavano che la Cina fosse questa, c'era qualche imprenditore italiano che operava in Cina, dove produceva per il mercato italiano, che stava cominciando ad accorgersi che forse era meglio cominciare a produrre per il mercato cinese, perché si stava accorgendo, stando lì, di quello che stava succedendo. Cioè, mentre l'Occidente pagava di fatto lo scotto della globalizzazione, la Cina stava vincendo la globalizzazione. Quindi oggi Probabilmente molti italiani sanno qualcosa in più della Cina rispetto al ristorante cinese, al di là di Di Maio che ha chiamato Ping il presidente cinese, però, o di Dolce Gabbana che naturalmente hanno reiterato la storia dei cinesi che non riescono a mangiare la pizza con le bacchette. E in realtà appunto sappiamo che i cinesi comprano le squadre di calcio, nel bene e nel male qua a Milano, ne sapete qualcosa? O magari qualcuno di voi c'ha pure uno smartphone cinese della Huawei, che qua in Italia si chiama Huawei, però ecco, è lo smartphone. Ma magari pochi di voi sanno che uscendo di qua c'è una telecamera che vi sta riprendendo con la telecamera prodotta in Cina e tra qualche anno magari quella telecamera utilizza un algoritmo cinese di riconoscimento facciale che andrà a matchare i vostri dati biometrici con i vostri dati personali e farà un grandissimo favore ai tutori dell'ordine, perché in Cina già questo sta già avvenendo oggi. L'altro infatti progetto con il quale Xi Jinping tenta, diciamo, di dare una propria impronta alla sua leadership. Tenete presente che Xi Jinping, il suo pensiero, che è il socialismo cinese, il socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, è entrato nello statuto del Partito Comunista, come solo era successo a Mao e a Deng, con la differenza rispetto a Deng che a Mao e a Xi Jinping l'immissione del proprio pensiero all'interno dello statuto del Partito Comunista è successo quando erano vivi, mentre invece Deng è stato, diciamo, gratificato solo dopo la sua morte. E non solo, ha eliminato il limite dei due mandati alla Presidenza della Repubblica, che era stato proprio deciso da Deng Xiaoping negli anni Ottanta per evitare gli eccessi maoisti. Bene, a marzo di quest'anno l'Assemblea Nazionale, che è quella la cosa che in Cina assomiglia di più a un Parlamento occidentale, ha deciso di eliminare il limite dei due mandati. Quindi Xi Jinping, se vuole, rimarrà in carica fino a quando vorrà. Perché? Perché ci sono i due centenari di cui si parla tanto in Cina. Il primo nel 2021, che saranno i 100 anni del Partito Comunista, l'altro nel 2049, che saranno invece i 100 anni della Repubblica Popolare. Per il 2049 la Cina si aspetta di essere a un buon punto di realizzazione della cosiddetta nuova via della seta e leader, diciamo, appunto, per tutto quello che è il mercato tecnologico. E questo dovrebbe succedere nelle intenzioni della dirigenza cinese attraverso un piano che si chiama Made in China 2025. Il Made in China 2025 è un progetto che punta praticamente a trasformare la Cina in una potenza tecnologica. Ci sono 10 settori nei quali il governo cinese ha, come dire, identificato, che vanno dall'automotive alla medicina, alle telecomunicazioni, ad esempio pensiamo al 5G, che è una parentesi che magari poi andiamo a capire un po' meglio. E naturalmente la base di tutto questo però è l'intelligenza artificiale e quindi sostanzialmente i dati. Essendo un socialismo di mercato, naturalmente i dati a un certo punto hanno cominciato a fare gola sia alle aziende sia al governo cinese, perché nel momento in cui tu capisci che hai tanti dati e che sono pure buoni, la voglia di utilizzarli per i tuoi scopi naturalmente sono molto forti. Prima di arrivare a questo punto bisogna però precisare che il piano Made in China 2025 non è solo concepito con uno sviluppo praticamente di start-up, di intelligenza artificiale, ma è più complesso. Ad esempio, proseguendo il lavoro che era stato fatto da Hu Jintao, anche questo governo ha spinto molto per la modernizzazione praticamente delle zone interne del paese. Lo ha fatto proprio sfruttando la possibilità di utilizzare proprio forme, la tecnologia e i big data. Pensiamo ad esempio al Guizhou, che è la regione più povera praticamente della Cina, che però attraverso finanziamenti dello Stato oggi è considerata la capitale mondiale dei big data, tanto che è lì che si organizzano le convention, i forum più importanti al mondo per quanto riguarda i big data. E qui c'è anche un po' di abilità sicuramente politica da parte dei dirigenti cinesi, perché queste zone molto povere però consentono di tenere i server con i dati, perché poi i dati da qualche parte devono stare, non è che sono solo, diciamo, sul cloud, così. E lì ci sono i dati non solo delle aziende cinesi, ci sono anche i dati delle aziende straniere. Perché? Perché grazie alle condizioni climatiche praticamente si risparmia un botto di soldi sull'energia, eccetera, tanto che c'è quello che viene chiamato il Green Data Valley, dove quindi ci sono queste immense costruzioni che stanno al vento e alle temperature giuste per conservare dei dati. Il problema per le aziende straniere è che in realtà avevano risolto un sacco di problemi, soprattutto di costi di mantenimento, per questo è che una nuova legge, e qui torniamo alla questione dei dati, una nuova legge cinese obbliga praticamente le società straniere che operano in Cina a tenere i dati in Cina, quindi non te li puoi portare via, devono essere sempre a disposizione del governo cinese di fatto, perché come dicevo prima WeChat, che è della Tencent, quindi un'azienda privata, nel momento in cui però il governo cinese dovesse dire dammi quei dati, la Tencent gli dà i dati, non è che si fanno dei problemi, anche perché non possono molto semplicemente non darglieli se vogliono continuare ad operare, tanto che di recente è scoppiato un piccolissimo scandalo, nel senso che poi scandalo non è, però il Partito Comunista ad esempio ha ammesso di richiedere a WeChat anche i messaggi cancellati, e questo naturalmente ha provocato tutta una serie di questioni da parte soprattutto di un mondo cinese che è minoritario ma che è un po' più attento a tutta una serie di questioni, come ad esempio quello della privacy. Di fatto in Cina non esiste una legislazione sulla privacy che sia minimamente vicina alla meno, come dire, forte legge sulla privacy occidentale, ma naturalmente comincia a esserci il problema a causa appunto anche poi dell'utilizzo che viene fatto di questi dati. Sulla base di questi dati la Cina ha deciso quindi di intraprendere lo sviluppo, di finanziare lo sviluppo di start-up sull'intelligenza artificiale, soprattutto rispetto ad alcuni temi. Il primo è quello del riconoscimento facciale. SenseTime, che è la principale azienda cinese su questo, è già quotata, una marea di soldi. In Cina si paga già in moltissimi ristoranti attraverso il riconoscimento facciale, esistono delle banche dove non ci sono più persone perché si fa tutto attraverso il riconoscimento facciale, e ovviamente, naturalmente, appunto, quando vi parlavo di contesto cinese, dobbiamo tenere in presente che in Cina c'è un partito unico, che quindi nel momento in cui una decisione viene presa, diciamo, il meccanismo verticale funziona benissimo, tanto più con i sistemi di controllo e di rispetto delle decisioni che ha il Partito Comunista, e quindi, per dire, le tecnologie di riconoscimento facciale la Cina le testa in Cina, ma le testa anche in Africa. Soprattutto in alcuni paesi la Cina ha effettuato degli accordi con alcuni paesi africani perché possano utilizzare, a cui ha venduto praticamente le telecamere che utilizzano l'algoritmo di riconoscimento facciale di incrocio praticamente dei dati, perché naturalmente in Africa con le popolazioni nere migliorano, è più difficile, sono più difficili tutta una serie di mappature praticamente facciali, e quindi la Cina può migliorare la propria tecnologia anche utilizzando i rapporti che ha con l'Africa, che come sapete sono importanti. Di fatto la Cina è uno dei paesi che investe di più in Africa, alcuni paesi sono completamente in mano praticamente ai cinesi, tanto che adesso cominciano a preoccuparsi per la cosiddetta, per il cosiddetto problema del debito, perché sicuramente la Cina agisce su un continente, quello africano, su cui l'Occidente ne ha combinato di ogni, però di fatto agisce come una sorta di fondo monetario internazionale che in questo momento sembra leggermente meno come dire, predatorio, però di fatto crea una situazione di debito con i paesi che finanzia attraverso infrastrutture, ospedali, scuole, strade, in cambio di risorse, però poi sono prestiti che devono essere restituiti. Un altro ambito nel quale la Cina sta investendo tantissimo è quello delle auto senza guida. È talmente quotidiana, tra l'altro, questa roba dell'intelligenza artificiale in Cina, che proprio stamattina mentre venivo qua in un gruppo di WeChat proprio un'amica mi ha mandato il video della macchina senza guida di Baidu, di cui io non sapevo neanche l'esistenza. Baidu è il Google cinese, chiamiamolo così. Ma mentre si sa di tutta una serie di aziende che stanno già sperimentando macchine senza guida e che grazie al 5G che ha tempi di latenza minore, eccetera, avrà ancora, dicono i cinesi, avrà ancora più possibilità di essere sviluppata, e i cinesi puntano ad arrivare per primi. Anche lì, bene, si sta sperimentando anche le auto senza guida di Baidu, che appunto, come dire, queste cose che vi sto raccontando sono cose che in Cina di fatto esistono già. La scorsa settimana ho incontrato uno scrittore di fantascienza cinese che si chiama Chen Chufan, che in realtà non scrive di fantascienza, scrive di realismo aumentato, cioè tutto quello che già sta succedendo in Cina, semplicemente portato leggermente più avanti, un po' come potrebbe essere Black Mirror, senza però quella vena, quella nota distopica, diciamo, di Black Mirror, perché in Cina anche la fantascienza è sottoposta ai finanziamenti del Partito Comunista, quindi non è che possono proprio dire che con tutto quello che sta facendo il Partito Comunista diventerà un mondo ancora più orrendo, ma come vediamo ci sono già dei casi pratici anche di questa cosa, e lui mi diceva che in effetti tutto questo è già realtà, no? In Cina. E infatti veniamo agli aspetti più inerenti alle questioni legate al controllo sociale. Tutta questa mole di dati, naturalmente, fa gola e ha fatto gola da tempo al Partito Comunista cinese, che in realtà già dall'inizio degli anni 2000, perché il primo a parlarne è Jiang Zemin nel 2002, sta progettando un sistema di social credit. Ora, su questa vicenda del sistema dei social credit c'è stata un po' di confusione, nel senso che ovviamente dal nostro punto di vista immaginarsi una società composta da cittadini a cui è attribuito un punteggio e che sulla base del proprio comportamento virtuoso e morale può aumentare o diminuire con tutta una serie di come dire, conseguenze, che possono essere dal non poter comprare un biglietto del treno a non poter comprare un biglietto dell'aereo, o addirittura non poter, ad esempio, prenotare una visita medica, ci fa sembrare subito dentro al mondo proprio di Black Mirror. C'è una puntata in particolare che mi pare si chiami Nosedive, nella quale appunto, no, le persone si danno un punteggio con lo smartphone, sulla base del punteggio che una persona ottiene. Non siamo ancora a quei livelli lì, naturalmente, però come dire, ci sono alcune sperimentazioni che già sono in atto in Cina e che si assomigliano molto. Allora, lo scopo principale della creazione di un sistema di crediti sociali nasce in Cina e dall'ambizione di, come dire, essere effettuato e essere, come dire, sviluppato soprattutto per quanto riguarda il mondo aziendale. E non è niente di diverso in questo senso dal sistema FICO che c'è già negli Stati Uniti, che prevede proprio una sorta di punteggio praticamente per le aziende. Lo scopo è quello di rendere l'ambiente economico il più trasparente, il più virtuoso possibile. Se poi questo è quello, diciamo, riservato alle aziende, in realtà poi appunto esistono delle sperimentazioni che sono già in atto per quanto riguarda invece il credito sociale personale. Cosa significa? Ad esempio, in alcune città cinesi viene già applicato, io ho un punteggio di 1000 punti che mi viene attribuito dall'amministrazione, e sulla base dei miei comportamenti virtuosi o meno, questo punteggio può diminuire o recuperare. Che ne so, attraverso la strada con il rosso c'è la telecamera che mi riconosce, via 10 punti. Guido in stato di ebbrezza, via 50 punti. Non pago una rata delle tasse o dell'Equitalia, dell'Equicina, via 50 punti. Nel momento in cui è già capitato, io vado a comprare un biglietto per andare, che ne so, in Italia dalla Cina, non me lo fanno comprare perché il mio credito sociale non è affidabile, non sono una persona affidabile, quindi non mi viene consentito, diciamo, di uscire dal paese. Oppure nel momento in cui devo prenotare una visita medica, a seconda del mio punteggio sociale c'è una graduatoria, quindi chi si è comportato meglio ha più facilità di me di arrivare a una visita medica. Ora, naturalmente, voi capite che tutto questo, con un partito che può avere tutti i dati di tutte le persone, può diventare anche qualcosa ancora di più, naturalmente, può diventare un effettivo punteggio sociale, nel quale magari non viene solo valutata la mia correttezza, come dire, civile, ma se io vengo tracciato nel momento in cui faccio degli acquisti online, allora compri dei prodotti cinesi o compri dei prodotti stranieri, quanto sei patriottico? Allora, sulla base del tuo patriottismo, noi possiamo decidere, ad esempio, che non puoi accedere a certi lavori nell'amministrazione pubblica, per fare un esempio. E questo già potrebbe accadere, considerando che alcune sperimentazioni stanno andando un po' più in là nel tempo. Quando nasce tutto questo? Nasce appunto proprio non troppi anni fa, e la People's Bank of China, che è la banca centrale cinese, aveva dato il compito di stabilire alcuni sistemi di credito sociale proprio a Jack Ma, ad Alibaba. Perché? Perché appunto Alibaba, essendo anche sostanzialmente una banca, fornisce naturalmente dei crediti, e una delle principali utilizzi dei dati che fa Alibaba è capire se io a Ronnie, per dire, Ronnie mi chiede un prestito, io come Alibaba traccio tutto quello che fa per capire se me li può ridare naturalmente. Si chiamava, questo sistema si chiamava dei Sesame Point, si chiamava, e quindi io sulla base di del comportamento, come dire, economico di una persona sono in grado di dire se mi può restituire o meno i soldi, e quindi posso tracciare anche un suo credito. Su indicazione della banca cinese sono andati un po' oltre, e sia Alibaba sia altri che hanno sperimentato questo sistema hanno proposto poi al Partito Comunista dei sistemi che addirittura anche il Partito Comunista ha ritenuto un po' eccessivi, e quindi è rimasta per un attimo tutto in stand by. Ma la scorsa settimana è uscito fuori che il sistema dei crediti sociali dal 2020 mi pare partirà anche a Pechino, e bisognerà capire un po' che cos'è. Ma per dirvi di quanto poi tutto sommato queste cose non siano tanto distanti da noi, a me mi ha creato un po' di agitazione, diciamo, sentire ad esempio il nostro ministro del lavoro parlare di beni, di acquisti morali e di acquisti immorali, perché voglio dire, almeno in Cina hanno Confucio che giustifica il fatto che ci sia appunto, no, la necessità di un comportamento virtuoso in armonia con tutto. Da noi mi risulta un po' più strano, però ecco, se c'è qualcosa ad esempio che si può avvicinare forse al sistema dei crediti sociali cinesi, può essere anche che sia la prossima gestione di quello che viene chiamato reddito di cittadinanza, che poi reddito di cittadinanza non è. Comunque, questo sistema dei crediti sociali naturalmente costituisce uno degli aspetti più importanti in questo momento e di maggior discussione in Cina, naturalmente negli ambiti relativi più al Partito Comunista, al mondo accademico e al mondo soprattutto delle aziende. Come dire, la possibilità poi della Cina di sperimentare tutta una serie di questioni che hanno a che vedere con l'intelligenza artificiale dipende appunto anche nello specifico dal contesto. Ad esempio, tutto quello che è videosorveglianza, tutto quello che è modelli predittivi per quanto riguarda la criminalità, che sono già stati utilizzati in Cina, vengono utilizzati ad esempio nella regione nord-occidentale cinese, che è quella dello Xinjiang, che è una regione che fino a un po' di tempo fa era a maggioranza musulmana, perché abitata per lo più da un'etnia che si chiama Uigura, che è un'etnia turcofona e musulmana, che per problematiche legate a spinte autonomiste e indipendentiste la Cina ha sempre considerato un problema interno molto forte, quindi lo ha sempre militarizzato. Quando nel 2008, poco prima delle Olimpiadi, ci furono degli attentati, mi ricordo che andai proprio a Urumqi, e a parte che non potevo uscire praticamente dall'albergo senza la scorta della polizia, ma era completamente militarizzata, e qualsiasi persona con cui sono riuscito a parlare in quei giorni lì mi raccontava di qualche familiare che aveva avuto qualche problema, o incarcerato o picchiato dalla polizia, perché naturalmente quella è una zona fondamentale per la Cina. Lo Xinjiang confina con 8 stati, e soprattutto a vederla oggi l'importanza di questa regione per la nuova via della seta è fondamentale naturalmente. Quindi Pechino sta praticamente sinizzando quella regione. Prima ha mandato un numero altissimo di Han, che sono quelli che noi comunemente chiamiamo i cinesi. Gli Han sono l'etnia maggioritaria cinese. In Cina ci sono oltre 50 etnie, quindi anche lì quando noi diciamo i cinesi non stiamo propriamente dicendo una cosa precisa al 100%. Prima ha mandato, con la campagna Go West, ha mandato centinaia di migliaia di Han praticamente a investire, a creare business in Xinjiang, e questo ha provocato intanto il fatto che una maggioranza, che era quella uigura, adesso oggi è praticamente già una minoranza, ma non solo, perché sfruttando il fatto che non c'è un numero preciso di quanti xinjianesi uiguri sono diventati nel tempo foreign fighters, con la scusa del terrorismo internazionale, la Cina ha ancora di più aumentato la stretta su questa regione, utilizzando ad esempio anche tutte le nuove tecnologie di cui dispone. Quindi tenete presente che da qui al 2020, poi magari avverrà un po' dopo, in Cina ci sarà una telecamera ogni 3 abitanti. In Cina sono 1 miliardo e 400 milioni di persone. In Xinjiang ce ne sono di più, ci sono stazioni di polizia ovunque, vengono utilizzate le telecamere che vi dicevo con riconoscimento facciale e vengono utilizzati dalla polizia locale anche dei modelli predittivi. E non solo, perché insieme al fatto che presumibilmente vengono utilizzati dei campi di rieducazione che sono stati di fatto ammessi anche dalla stessa Cina, solo che Pechino dice che sono dei posti bellissimi, dove sono rinchiusi nel tempo oltre 1 milione probabilmente di uiguri. La nuova ondata praticamente di cinesi Han che sono stati mandati lì fa il paio, diciamo, col controllo sociale più tecnologico, perché i cinesi Han che sono mandati nello Xinjiang vengono invitati a stare nelle famiglie delle uiguri e a stare lì con loro e a controllarli fondamentalmente, che non parlino, di religione, che non abbiano dei comportamenti appunto estremisti, eccetera, per dire come poi la Cina, quando vuole, utilizza tutte le armi che ha a propria disposizione. Finisco con la questione, appunto, che è poi il titolo del nostro incontro, cioè lo scontro USA-Cina. Tutto quello di cui abbiamo parlato lo sanno molto bene gli statunitensi, tant'è che i dazi che sono stati messi dagli Stati Uniti contro la Cina, che adesso dal 1 gennaio, almeno che appunto stasera in Argentina, per noi sarà notte, non succeda qualcosa tra Xi Jinping e Trump, dal 1 gennaio dal 10% passeranno al 25% su oltre 200 miliardi di prodotti, e pare che poi verranno addirittura, Trump vorrebbe addirittura aumentarli. Ma dove colpiscono poi alla fine questi dazi? Perché va bene, cioè, c'è uno scontro commerciale che Trump ha anche le sue ragioni, nel senso che la bilancia commerciale tra Cina e Stati Uniti è la più sbilanciata al mondo, nel senso che gli americani comprano molto di più dalla Cina di quanto non vendano alla Cina, stiamo parlando di oltre 300 miliardi di disavanzo, quindi tutto sommato, voglio dire, non è che Obama non lo sapesse, Obama utilizzava altre strategie che erano quelle del contenimento, quindi cercava di, come dire, togliere fette di mercato praticamente, di indebolire la Cina su altri mercati senza arrivare a uno scontro per quanto riguarda proprio lo scontro diretto Cina-Stati Uniti, tenendo conto il piccolo particolare che la Cina detiene la parecchia parte del debito pubblico americano, è il primo praticamente paese straniero per quanto riguarda quote del debito pubblico americano. Quindi Obama non voleva arrivare a questo scontro, ma soprattutto Obama, come dire, ha cercato di gestire in tutti i modi la decadenza, di fatto, una fase di declino dell'imperialismo americano, che in un mondo multilaterale deve utilizzare nuove strategie praticamente per muoversi nel contrasto proprio con la Cina. Quindi dov'è che Obama voleva colpire la Cina? Ad esempio in Asia, che i cinesi considerano il proprio cortile di casa, Obama aveva creato la Trans-Pacific Partnership, il TPP, cioè un accordo di libero scambio che praticamente metteva insieme tutti i paesi asiatici e gli Stati Uniti tranne la Cina. La prima cosa che ha fatto Trump appena arrivato all'amministrazione USA ha affossato il TPP, quindi a Pechino hanno stappato grandi quantità di champagne, se non avesse poi messo naturalmente questi dazi. Dazi che vanno a colpire cosa della Cina? Vanno a colpire proprio Made in China 2025, perché i dazi sono stati messi proprio esattamente principalmente su quella che è la produzione tecnologica cinese, che nel frattempo naturalmente sta cercando di essere sempre più indipendente, ad esempio dall'importazione dagli Stati Uniti soprattutto dei semiconduttori, che naturalmente agevolano poi tutta un'altra serie di produzioni autoctone. E la Cina naturalmente non è che non lo... probabilmente non pensavano a Pechino che Trump agisse così velocemente, però erano preparati, tant'è che lo scontro dei dazi nasconde, come dire, uno scontro in prospettiva molto più ampio, che è proprio quello, come abbiamo detto, di chi arriverà prima al 5G, chi arriverà prima a commercializzare l'auto senza guida, chi arriverà prima a essere leader nell'intelligenza artificiale. E lo scontro commerciale è uno scontro che ha anche delle caratteristiche politiche, perché Trump va a colpire il Made in China e la Cina, poco prima delle elezioni del midterm, che cosa va a colpire? Va a colpire gli agricoltori, i produttori di soia del Midwest, che praticamente è la pancia elettorale di Trump. Vedremo naturalmente se si arriverà a un compromesso o meno, secondo gli economisti che in questi giorni si stanno sbizzarrendo sul caso. Comunque, anche se gli Stati Uniti dovessero aumentare ancora i dazi, non saremmo ancora di fronte allo scenario peggiore, però sicuramente in ballo non c'è semplicemente una bilancia commerciale, ma c'è appunto la possibilità che gli Stati Uniti vengano scalzati praticamente dalla leadership mondiale per quanto riguarda la tecnologia. Il discorso è molto chiaro, cioè si pensa che il primo paese che arriverà a tutta una serie di cose, come ad esempio 5G eccetera, sarà in grado praticamente poi di avere un dominio molto forte a livello economico, perché ad esempio solo il 5G influisce di almeno un punto percentuale, quindi naturalmente parliamo poi di business decisamente ampi. Io direi che con questo ho finito un po' la carrellata, spero di non avervi messo. Spero che questa conoscenza vi sia utile e mi auguro che tu la condivida.